Io ci sono già in AM. Io sono già in AM. Attenzione, canale 10, cambia, via, via. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, così dovrebbe andare bene, Giulio, guarda, questo microfono come va, cambia. Sento basso basso, Giulio, infatti pensavo di prendersi la me, ho alzato il volume, ma non era la me. Gianni, ma perché il tuo segnale va e viene? Sembra ubriaco, una Jäger Meister sembra che c'è bevuto. Perché poc'anzi l'ho abbassato, che non ho sentito, è già 5 era, a metà di 1. Capito, ti non te la Jäger Meister, imbriaga e balla. E vabbè. Ma davvero sta oscillando il segnale? Poi non lo so, io non so cosa dirti. Ma voi oscilla? Sempre il microfono si interrompe. Abbassa ora, Giulio, sei troppo alto. Danni, che si interrompe il microfono sempre. Hola. Io mi sto ascoltando. E si sente sempre bene. Sto con viva voce. Bene, Gianni, prova. Franco. Sì, ti ascolto. Dai, abbassa un Nevis. È migliore, è ancora migliore, è migliorato ancora. Provo il radio anche per me, 1, 2, 3, 4, mi date conferma? Ultima. Va bene, dai. No, perché ho rimesso il forcellino, ora che siamo in AM. Sì, ho scoperto il perché comunque. Diciamo che è di suo di radio, è di suo, quando vai in Lima se la va bravo, Uniform oppure in FM da tutti i watt, quindi è così. Guardate con questo microfono come va, cambio! Sta innescando già, un bel pure. No, non è un difetto, è una cosa nata quando è stata fatta la modifica, sì. No, guarda, di questo non devo dire niente, va più che bene, lasciamola così. Va benissimo così, Tino. Sì, no, perché poc'anzi eravamo in FM tutta la sera, me l'hanno fatto abbassare, me l'hanno fatto togliere troppo, me l'hanno fatto togliere perché e addirittura ho cambiato anche l'impedenza del microfono, ho messa a 500, perché mi dicevano che era troppo forte e dunque che dava fastidio, ecco, poche parole, solo quello. Poi adesso che siamo passati in AM, allora ho rimesso tutto in ordine e dovrebbe andare bene così. È ottimale Giulio, non poc'anzi hai avuto un calo di radio, ma perché è passato, deve essere l'amplificazione a 0,5 mi hai detto, ho sentito, dai. Infatti ho detto ma sarà, perché ti stiamo ascoltando con un'altra radio, con il tutto. Ho detto ma come mai Giulio è così basso, ecco, e poi avete tolto il discorso del carrier. Sì, e io ma ho abbassato proprio il microfono proprio, era 0,5 il microfono. Però di solito lo tengo a uno, adesso a uno, come sempre, io non lo posso mettere più forte perché se no strappa. Invece in FM, nonostante che era uno, dice che mi hanno detto che era troppo forte, e allora l'ho abbassato ancora e dicevano che andava bene. Cosa vuoi che ti dica? Sì, no, d'altronde, ognuno di noi chi lavora corta e chi lavora cruda, sì. Sì, riprendo io, poi devo andare. Sì Giulio, come si suol dire, gusti e colori non si discutono, quindi ognuno ha il suo orecchio, ognuno ha la sua vita, ognuno ha i suoi gusti e colori, quindi non metto in dubbio. Mi devo lasciare perché devo fare una cosa in cucina e serve il mio tagliere e il mio coltello per poter mettere qualcosina in saccoccia, quindi devo mollare, mi dispiace, sono entrato tardi oggi perché nel dovere mi ha preceduto. Vi saluto, rilancio il mic a Franco, aspetto i saluti e poi vado via, dai Franco. Ok, ciao a te, buon lavoro in cucina allora, dai, buon arrosto, sicuramente è così. Ciao a te, grazie per essere entrato stasera a cambiare due chiacchiere e a salutarci, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao a te. Avanti Gianni. Ehi, ciao Tino, dai, ci sentiamo, buona serata. Avanti Franco. Adesso l'ho fatto abbassare per entrare in FM, mi hanno fatto togliere l'eco e tutto quanto. Infatti a me l'FM non mi piace solo per quello, perché non puoi alzare, non puoi fare nulla, devi entrare normale normale, se no esci male. Eppure mi hanno detto che non andava bene, uffa, che cosa vuoi che ti dica? Incredibile, uiaia, vabbè dai. No, tu in FM non vai bene col processore, lo devi staccare, in AM vai bene, mentre invece io vado bene col processore in FM. Buonasera a tutti. Eravamo in FM, addirittura ho messo il microfono, il mic gain l'ho dovuto mettere a metà dell'1, cioè a 0,5 e forse anche di meno, perché mi dicevano che era troppo forte anche a 1. Ti puoi immaginare, o claro, cosa vuoi che ti dica? No, ma Giulio, in FM con 440 deve staccare il processore e basta, non devi toccare altro. Ok, evidentemente in FM quella radio spinge troppo e sei troppo alto, non lo so, io non tocco niente, io come modulo in AM, modulo in FM, la stessa cosa. Ok, dai, va bene, anch'io sono entrato per salutarvi perché sono rientrato adesso, sono uscito, volevo fare assolutamente, stavo facendo le prove con Massimiliano, voi eravate in FM e ne ho approfittato, e poi adesso sono rientrato ed è quasi pronta la cena, quindi vi saluto, dai. A domani se coincide, ciao Franco, Gianni, Giulio e chiunque fosse in ascolto, bye bye. Ok, ciao qua, grazie per essere entrato a salutare almeno, ci sentiamo domani. Ciao ciao qua, alle plus. Vai Franco. Gianni, è caduto? Interessante capirci poi per il resto, più alto, più basso, più cupo, più chiaro, ragazzi, da punti, interessante capire quello che diciamo, poi tutto sommato, va bene lo stesso. lo scopo è quello, lo scopo maggioritario è quello, capire quello che si dice, pure alto, basso, cupo, Aragallo Villa, o alla Gerentano va sempre bene. Lui lo sa. Ho capito, vabbè, qualcuno se lo prenderà, perché no, certo, saremo a vedere, mi farei sapere se per caso decidi di farlo sapere a qualcuno, perché anch'io sono qualcuno, non sono nessuno. Va benissimo, interessante sentirsi fra voi, per il resto va bene così, certo. No, io ne ho portato tutto al tavolino, tutto, o solo questo e basta. Questo è l'alimentatore, boh, tutto lo giocavato. Non voglio stare lì tutte le volte a smontare tutto per spolverare, ma lui, quando la gamba lo mangia, va, tanto lo uso uno alla volta e ciccia. Adesso ho questo, quando mi stanco poi cambio e rimetto l'altro e elimino questo. Io a disposizione ho una mansarda, non ci saliamo mai una volta, e poi quando ci saliamo ci salgo solo io, mia moglie non ci sale mai, la figlia non ci sale mai, volendo potrei fare la stazione di su, ma smagamelo quasi va, ma lasciamo stare tutto come è, tanto parlare da qua, da questa stanza, parlare da su, chi se ne frega, è uguale per me, non ne ho di ambizioni. E dunque mi sono deciso e sono rimasto qua, poi se cambio idea, ripeto, su c'è tanto di quello spazio che sarei, intanto tutto a conto mio sarebbe prima di tutto, e poi non avrei nessun problema, nessun intralcio, niente, non ne ho nemmeno qua intralci, però voglio dire, è praticamente un piano inutilizzato. Ma prima ce l'avevo con l'intenzione, ma poi mi è passata tutta la fantasia, cosa? Tanto per fare due chiacchiere, per le persone che ci sono rimaste, va bene così, rimango qua tranquillo e pacifico, così, e mi posso sdraiare anche, allungare il braccio e parlare, prima, cioè su, se faccio una cosa come si deve, però non ci penso nemmeno, cioè non ne vale la pena, dai, non ne vale la pena, va bene così, anche perché per fare le cose così un po' in grande bisognerebbe fare una piccola modifica di spazio lì, per cui va bene così, rimango così e non se ne va a vedere tanto, è uguale. Appunto, sì che non è. No, perché tutte le volte, anche perché sono maniacale io, nel senso che il tavolino non doveva toccarlo nessuno, perché c'erano le apparecchiature mie e non dovevo metterci le mani nessuno. dunque però dovevo pensarci io a polverare, a fare, e tutte le volte se dovevo togliere tutto per pulire prima i ripiani, poi polverare l'apparecchio e rimettere la bocca. Ma che me lo faccio fare tutti quel lavaggio quando non ne vuole la pena, che sono sempre stanchi più che altro, e devo polverare, lui, e allora ho lasciato perdere. L'ho trovato tutto, ho messo tutto dentro delle scatole e dove sono conservate in massata, tutto di fra. Infatti, adesso vediamo quando mi riportano l'antenna che avevo dato, la Game Master originale, così quella la piazzo e la metterò magari al posto dove c'era la volta battuto, e così vediamo se migliora anche come prestazione. Dovrebbe migliorare perché è più in alto e poi è originale, e dunque dovrebbe migliorare rispetto a questa autocostruita. Staremo a vedere, è solo questione di giorni, dai. Ha detto che appena che la prima volta che vengo lì, dice che te la riporto, te la riporto. Tanto me la viene regalata, sì che da trovare, me la riporta e ciccia. Guarda che, vabbè, ovviamente questo è più basso dell'altra, della volta, ma è più basso. Ma l'altra, come l'altra, va arrivare più forte, l'altra è più forte. Questa è il 2005, non ve lo vicino. L'altra arriva neanche il 9-10, 9-15 è arrivato qua. Era più in alto almeno 6 metri. Era più in alto almeno 6 metri. Per cui la posizione è stata migliore, dai. Per questo è nel terrazzo, ci sono anche i muri. E dal livello del tetto sporgere, cosa può sporgere? Dal livello del tetto 50 cm più o meno. In tutto c'è 1,20 m di palo, non di più, perché è attaccata a un davanzale, no? Tu immaginati una finestra, è attaccata lì, al davanzale che c'è in terrazzo, e dal tetto sporge sia 9 o 50 cm, non c'è di più. E poi tra l'altro è nella parte bassa del tetto, non è nella parte alta, mentre invece l'altra era pensata nella parte alta del tetto, che poi c'erano 5-6 metri di palo in più, e la differenza è quella. Quello sì, perché la testa è anche quello. Quella autocostruita, adesso quando me la riporta, io l'originale ce l'avevo, la Game Master originale ce l'avevo, ma l'avevo data, adesso me la riportano, dunque quando me la riportano allora tolgo questa autocostruita, tanto non me ne posso niente, e la metto però nel posto della Mantova Turbo, la metto e dunque più in alto, ma con la antenna originale Game Master, o quello che intendevo. Sì, ho capito. Guarda che io penso che anche questa, se la metti lì al posto della logica, dove la logica, a quell'altezza, arrivi uguale? Sì, è probabile, perché io questa l'avevo fatta con le stesse misure della Game Master, cioè quando io ce l'avevo qua, che era tutta quanta smontata praticamente, avevo preso tutte le misure. Dunque quando io questa l'ho fatta, avevo fatto le stesse misure della Game Master originale. Ecco, adesso lo so se effettivamente ha la stessa resa o meno, però io so solo che le misure sono quelle, ho fatto quelle e basta, offra. Se hai fatto quelle misure è quella, c'è poco da fare. Dovrebbe darti tanto la Game Master. In teoria dovrebbe essere così, poi bisogna vedere, che ne so. non so cosa dire, perché il cavo con la chiave è diverso da quello che ho utilizzato io. Io ho utilizzato la H155, ho utilizzato, mentre invece so che la Game Master originale monta un cavo che si chiama cavo coassiale 303, mi sembra di aver letto al computer una cosa del genere, 303 di come numero di cavo, che ne so poi a cosa si riferiva, però è un diverso tipo di cavo, insomma, ecco, non so se influisce. Ho capito, sì, certo. Va bene. No, io ho la Camille. Ho la Camille come cavo qua. E basta, niente di particolare. Ho la Camille, è rigido, soprattutto il filo centrale è rigido, è solo un unico filo, non è di quelli capillari. No, questo non è come il 213, questo è rigido proprio, infatti dentro il piede, nella spina centrale del piede, entra giusto. Tu pensa che non ho nemmeno saldato. Così l'avevo messo e così l'ho lasciato da sempre, per cui ti puoi immaginare. Eppure ho visto che va bene lo stesso, perché il contatto lo fa ugualmente bene, senza bisogno nemmeno di saldarlo. Anche perché in quel periodo che avevo fatto non avevo nemmeno il saldatore, anche se adesso ce l'ho già da tanto tempo di nuovo, l'avevo comprato, però non l'ho mai saldato, ho visto che funzionava e poi l'ho lasciato. La Camille era quella del suo lato, sì, la Camille, e una volta quando parliamo che si lascia un ricordo, e io sono rigido. Sì, è rigido, infatti diciamo che tutto sommato è anche sconveniente, perché se metti ad esempio un'apparecchiatura leggera, tipo che so io, un rosmetro, secondo come hai messo il capo te lo solleva e te lo mette fuori sede, diciamo, dai, no? Sì, si potrebbe mettere con lo stazzone, d'accordo, quello che vuoi, però sai cos'è, che la Camille ha una velocità di trasmissione di 0,85, mi sembra, 0,83, non ricordo bene, ma forse 0,85, mentre invece se fai lo spettatore lo dovrei fare con lo stesso cavo, se cambio cavo mettendo un cavo sottile a 0,66, e dunque allora siamo diciamo un pochino in disaccordo con lo fatto dello spettatore col cavo di discesa dell'antenna. Appunto, non va bene, cioè va bene lo stesso, sentire ci sentiamo lo stesso, trasmette lo stesso, però c'è un qualcosa di anomalo, allora in quel caso lì, persone non emetto, sì, alle fonti di quando magari provo con il rosmetro, allora, però, ripeto, se uno mette il rosmetro deve avere gli spettroni che abbia il cavo con la stessa velocità di trasmissione del cavo di discesa, se no stiamo facendo un lavoro non fatto bene, io la penso così, so che è così e così è, perché deve essere così in effetti. Io ho lasciato 3-4 litri di roba che ho potuto tagliare per arrivare qua, capito? anch'io dovevo adesso il baracchino, diciamo che ho 25 metri di cavo in tutto e anch'io non avevo mai tagliato, però ripeto, anch'io un 2-3 metri li potrei anche tagliare, però mi dispiace rovinare un cavo così, perché è un cavo buono che ha poca dispersione, anzi non ne ha proprio, perché è schermato al 100%, e quello è importante, agli effetti delle interferenze e per altre apparecchiature eccetera. E tagliato, potrei tagliare anch'io, almeno 2-3 metri potrei tagliare anch'io, ma non l'ho voluto tagliare, ma lasciamolo così, tanto tutto quello che è in più è sul tetto o fra. Quello sì, vabbè, io ce l'avevo tagliato, però no, ma io non taglio perché lo faccio arrivare tutto qua, lo faccio arrivare, tanto quello si può fare, quello è una cosa che non è questo il danno. E in più hai detto che da quello che faccio gli stessi, come ragazzi che potete fare. Ecco, infatti è così che si deve fare, con lo stesso cavo, con la stessa velocità di trasmissione, fare gli spezzoni giusti per gli strumenti, certo. È così, infatti è così che si dovrebbe fare, sia per il commutatore d'antenna, sia per il rosmetro, insomma è così. E non avrebbe senso se non farlo, ad esempio, avere come linea di discesa l'H1000. E farlo magari, che so io, con l'H155, anche se è un buon cavo anche quello, però ha diversa velocità di trasmissione, per cui c'è una specie di avaria tra l'uno e l'altro, e non so fino a che punto poi il risultato dello strumento sia accettabile o meno. Beh, chi lo sa, boh. Lo so. Il problema di questa radio, di questo baracchino, è che non è come l'altro come stava a un'età di watt, questo sempre allo stesso modo. Certo, beh, vabbè, comunque va bene così, e noi facciamo, vabbè, tutto è esperienza, tutto è fare, indubbiamente, anche perché questo tipo di passione che abbiamo per la radio ci porta a fare anche degli esperimenti, eccetera, che poi, tutto sommato, è lo scopo principale di avere questa radio, e cioè fare anche esperimenti, e soprattutto magari fare anche degli argomenti relativi a quello che è la radio, a quello che è l'antenna, a quello che è il microfono, a quello che è insomma un po' tutta la strumentazione. Non so, la banda cittadina è parigianamente, così si dice a Sassari, e allora facciamo chiacchiere e basta, tutto lì. Però se dovessimo essere un pochino obiettivi, si dovrebbe utilizzare per quello che ho detto prima. Sì. Ma è normale che l'orario in lungo verso sia 2-4, 3-4. Sì, quello sì. Sì, perché te lo vendono per 4 watt, però 4 watt non te li darà mai. Non te li darà mai. Quando te ne darà molto te ne darà 3 watt. Se poi sei fortunato, proprio fortunatissimo, se puoi dare 3 watt e mezzo, ma 4 non te li darà mai. Comunque in genere sono sempre 3 watt quello che dà. Di più non dà, ma è un po' tutta la apparecchiature, anche guarda che anche nelle radio professionali lo stesso, magari ti dicono questo da 100 watt, poi le misuri con lo strumento serio e magari te ne dà, che so io, 80, 85 e 90 e tagliando. Lo stesso discorso vale per gli alimentatori lineari, dice questo lineare ti darà 500 watt, poi lo metti sotto, provi e magari ti darà 350 anziché 500, è così o fra, è tutta una questione di fregatura per il commercio. Sì, no, perché questo, fino adesso mi stai dando modulati 3-5, dai, 3,5, 3,5, mi sta dando, se non di più, a 4 non arriva. Allora, cosa? stato è quello? Ah? E vabbè, 48 così. E comunque, mi sono assentato perché mi ha telefonato mia figlia da Bologna e quindi mi sono dovuto assentare, dai. Stavo acquistando una casa e servivano i documenti con la referenza, i miei documenti, e quindi li ho dovuto spedire tramite WhatsApp tutti. Ok, infatti poc'anzi ti abbiamo chiamato, ma è sparito già. Va bene, dai, va bene. Sì, ma è così, stavamo parlando appunto di questo 48 che dà 3 watt, 3 watt e mezzo, ma è così, è normalissimo, anzi, più che normale, più che efficiente quando ti dà quei watt. Poi tutto è subordinato anche alla tipo di antenna, cioè per quello, se noi quel vantaggio lo dovessimo vedere in antenna, stai tranquillo che i 3 watt non ci sono nemmeno in antenna, magari penseranno che sono io 2, perché c'è anche quello da considerare, perché c'è tutta l'estensione del cavo, c'è l'antenna che non ti dà la massima espressione tecnica, è tutto così, lo sappiamo, è normalissimo fra. Lui dice, io sto facendo con 3 watt, sì, 3 watt è in un apparecchio, però poi vai, tu misuri un'antenna e ci saranno, se no, 2 watt, 1 watt e mezzo, è così, avanti fra. L'importante è che mi sentano, tu hai detto. Quello sicuramente, quello che interessa a noi è sentirci. No, ma perché noi tante volte parliamo, mi sta dando 10 watt, oppure se uno si mette un lineare, mi sta dando 100 watt, soprattutto se uno ha un cavo scadente, 10 watt e del blu più, domani, è così, purtroppo è così, ma è normale comunque, dai, c'è la dispersione. Tu pensa ad esempio, se tu metti un programma alla televisione, e poi metti un'altra televisione in un'altra stanza, che ci siano una lunghezza di cavo un pochino più lunga, tu noterai che c'è una leggera differenza di tempo quando danno i programmi, no? Che danno nel parlare, però io sto parlando nel parlare, non nel video, nel parlare, c'è una differenza di tempo, c'è qualche secondo in più per poter sentire la stessa parola che magari nell'altro televisore ha già trasmesso. E così vale un po' per tutto, vale. Avanti Gianni. Allora anch'io quello, perché a volte sto facendo roba in cucina, stavo guardando il televisore in sala, lo lascio acceso in sala, lo accendo anche in cucina e si sente prima che lo dice in cucina e poi lo dice in sala. È una cosa che ho notato anche io. Beh certo, perché c'è la dispersione del cavo, no? La dispersione del cavo, è ovvio. È come se noi andiamo da qui a 100 metri, non possiamo impiegare da qui a 150 metri lo stesso tempo, è uguale il segnale radio, il segnale audio, è uguale, è identico, no? Più percorso da fare e più ritardo c'è. Tu prendi ad esempio la radio con la televisione e provo a mettere quando c'è una partita di calcio ad esempio alla radio, oppure quando c'è un programma di canzoni tipo il festival che trasmettono la stessa canzone allo stesso tempo c'è nella televisione e nella radio, tu ti renderai conto che c'è differenza di arrivo nelle parole, c'è una differenza di tempo fra la radio e la televisione. Tutto questo si chiama velocità di trasmissione, per cui è spiegabile il fatto che ci sia questo ritardo. Avanti fra. Sì, una cosa che avevo fatto anche io. In effetti io qua, questa che c'ho qua adesso, sono 8-9 metri di cavo, cioè, perché l'ho agganciata lì alla stessa antenna, tutte le salte. E la distensione ce l'ha. Certo, ma è normalissimo. Ad esempio ce lo dimostra anche, ad esempio, quando ci sono i collegamenti anche nella televisione, no? Che magari poi ti fanno un servizio da uno che è collegato fuori, ad esempio la politica, stiamo parlando di una qualsiasi cosa, oppure di un incidente che è successo, e c'è l'inviato sul posto dove c'è magari è successo il fatto. Il presentatore, o meglio quello che annuncia il giornale radio in televisione, poi chiama l'inviato e tu noti che l'inviato per un attimo rimane così incantato dopo che quello che il giornalista della televisione gli ha fatto la domanda. Tutto questo perché? Perché non gli è arrivata ancora la notizia tramite radio, non gli è arrivata lui ancora, sempre per lo stesso motivo, no? Avanti Gianni. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Io avrò il cavo anche scadente, ma per me va bene lo stesso. Io sono di quell'opinione lì che anche alle 12:58 farà bene. L'ho tenuto per 17 anni, non mi ha mai dato problemi quel cavo lì. Arrivo a tutte le parti, per cui a chiedere più di più, fare buchi più grandi, cambiare tutti i connettori degli apparecchi, degli strumenti, eccetera, eccetera. Ah, lascio quello lì e boh. Beh, certo che va bene, io non voglio andare. Anche se metti al posto del cavo da 52 ohm, ci metti il cavo da 75 ohm, arriva lo stesso, non ti crede che non arrivi? Arriva lo stesso. Si tratta solamente di adattarlo per non avere il ritorno di radiofrequenza, per non bruciare i finali. Che si può adattare, se no noi possiamo trasmettere volendo anche con il cavo coassiale della televisione, quello a 75 ohm, però c'è da apportare una piccola modifica, c'è da apportare, e cioè praticamente utilizzi quel cavo, però alla fine ci va una resistenza che ti pareggia con due linee, lì addirittura con due linee di cavo TV. Tu puoi utilizzare il baracchino tranquillamente senza nessun problema, però alla fine, prima dell'ingresso della baracchino, ci vuole una resistenza di un certo valore che non fa altro che accoppiare intanto i due capi, e allo stesso tempo ti riduce l'impedenza e te la porta a quella che hai combinato col valore della resistenza, tutto lì. Tante cose che si possono fare, purtroppo, solo che tante cose tecniche non le sappiamo nemmeno, ma si possono fare. Qualcosina io già lo so, però si possono fare. Avanti fra. Sì, diciamo che oggi è 10:58 e il primo caso anche che ho comprato io qualche anno fa, quando mi trovavo prima. E lo so che era brutto. L'unico cavo buono che mi ha preso è adesso che ho cominciato. Ma prima usavo lo stesso, e anche bene usciva con la 1158. A parte che era un cavo che era maneggevole perché lo giravi con i colleghi, facevi spettacoli, facevi di tutto, ed era più comodo. Solo per quello. Io perché ti credi che non ho mai cambiato, perché la disaffetta, ti muovono gli strumenti, no, non mi piace. 1358 per me fa il buco piccolo nella porta finestra, non devi farlo largo, poi lo puoi tappare benissimo, basta un po' di silicone bianco, non si vede più nulla. Io gli ho messo anche il silicone, ho fatto bene il lavoro, l'ho fatto tutto bene, io sono gubignolo. Gli ho messo anche il silicone nel buco che ho fatto per mettere il 1158, l'ho fatto giusto, e poi a Tomo gli ho messo il silicone per non muoversi, così almeno sta fermo lì, tanto gli ho dato un bel po' fuori, intanto che è arrivato tutte le parti, mi ha avanzato un bel po' sul tetto, quello sì. Sì, già, va bene, chi è che ti dice che non va bene? Va benissimo. È fuori del fatto che, cioè, come transizione, va ugualmente bene, i problemi non ce ne sono, non ce l'ha. Casomai i problemi possono suscitare in altre cose, tipo ad esempio la schermatura, che è un caso stile poco schermato, come dove dici, quanto rotto, facendo una calata di discesa, perché sappi tu che le interferenze non è l'antenna che le dà, è il cavo che fa le interferenze ai cusi, ai TV, eccetera. Allora, se il cavo ti scende vicino al cavo TV, per induzione della radiofrequenza può dare fastidio al ricevitore, cioè l'apparecchio che riceve, mentre invece mettendo un cavo schermato in maniera più seria, tipo la caviglia ad esempio, che è schermato al 100%, a differenza di altri cavi che sono schermati di meno, anche il 213 è schermato di meno, che è schermato all'85%, perché significa che ha una fuga di dispersione di spurie del 15%, passando vicino ai cavi, altri cavi, potrebbe essere anche ai cavi telefonici, ai cavi della TV, ai cavi di altri generi di ricevitori, può dare fastidio, primo. Poi la differenza nei cavi, in che cosa consiste? Consiste, io ti ho parlato poco fa di velocità di trasmissione, ma non è solamente quello, il fatto di velocità di trasmissione. Ad esempio, un AVG58, come anche un H155, anche un 213, hanno una lunghezza d'onda in aria, quando tu metti la portante, non hai una lunghezza d'onda di 11 metri, bensì ce l'hai ridotta di 34 metri, praticamente. Anziché avere la lunghezza d'onda di 11 metri, allora essendo di velocità 0,66, come è il cavo che ti ho appena detto, significa che perdi in lunghezza, cioè la tua onda in lunghezza perde praticamente 34 metri, perché 0,66 più 34 fanno il 100%. Quasi gli altri cavi, man mano che hanno una diversa velocità di trasmissione, c'è una differenza di lunghezza d'onda in aria, sia ben chiaro questa parola, in aria. Mi sono chiamato Gianni, a Gianni l'ha detto un titolo, ma non risponde. Per modulare, anche quando modulavamo allora, che facevamo la PDS, facevamo di tutto, eppure facevamo lo stesso. Beh, senza dubbio, certo che si facevano ugualmente, questo non ci sono dubbi, già lo grido. Però tutte le cose tecniche, che a noi, ripeto, nella nostra banda non sono così importanti, non c'è niente, però se uno dovesse fare il radioamatore, ma il radioamatore quindi con la R maiuscola, però no, di Gosulo, no? a tipo Giarinciunno, radioamatori, questi particolari ritengono conto, poi ognuno, ripeto, si arrangia come può per vari motivi, un poco bagosa, compro un cavo che mi costa di meno perché ne devo prendere magari 300 metri per mettere tutte le antenne che devo installare, sto parlando in quel caso di radioamatori, no? E allora uno risparmia, non gli frega niente magari di prendere qualcosa, eccetera. Sono vari, i motivi sono vari, però se dovessimo parlare in linea teorica, ci sono dei motivi da tenere in considerazione, e da CB non è nemmeno il caso di tenere in considerazione, che se ne frega, per me arrivi in nubi, o arrivi in nubi 9,5 è uguale, non cambia niente, ecco cosa intendo dire. Gianni sei rientrato? Gianni si è perso, vai qua. Mi ero telefonato, ma io mi sono perso. Rispondi, allora ti parlo qua, parla già. Purtroppo questo è un centralino, non è sicuro che ti pigiama. Riprendo, sì, ho capito tutto il concetto del cavo, del ritardo, cioè ti stavo ascoltando mentre parlavo al telefono, ascoltavo due cose. Ho capito tutto il concetto, però sono sempre del parere che ho usato sempre quello, il più malleabile il filo, lo puoi piegare, fare, e poi c'ho tutti gli spezzoni fatti con quel filo, dovrei cambiare 4-5 spezzoni e farli con l'altro cavo, e devo usare altri piede, devo usare altra roba, altre spese. Ho già speso 170 euro per l'antenna, poi il palo, poi i tiranti e poi tutte le... e ci ho avuto un 200-250 euro di spesa a fare. Sì, ma lo so, appunto sto dicendo, ma quello lo avevo già detto, che tutto sommato a noi non ci conviene, no? Perché ce lo fa fare, non ce ne frega niente, ma se uno non deve guardare le spese, eccetera, e se proprio uno vuole fare veramente il radioamatore a puntino, veramente, come effettivamente la tecnica elettronica ti richiede, queste cose le devi tenere in considerazione, poi non ce ne frega niente, cosa me la frutta di sentire quello in Australia per dire con Santiago 5 o sentivo con un Santiago con 9, ragazzi, ma tutti basta che lo senti, basta. Per dire, però tutte queste cose, io te lo sto dicendo perché io di caso me ne prendo, ho fatto la ad un esami e lo so, ma questo non vale solamente in radiotrasmissione, vale anche nella radio diciamo, nella TV vale, e anche nella radio. E tutte queste cose esistono, ma noi non le teniamo in considerazione anche perché la gente non le sa nemmeno, per dire, no? Cioè se uno non è un po' addentrato in certi settori, se non ha praticato certe cose, non le sa nemmeno, o perlomeno deve essere proprio uno che studia molto, che legge molto, e si informa e allora può anche sapere, anche se non ha fatto il diciamo così, parte del lavoro, dell'antennista, eccetera. Ma per dirti, queste cose esistono e ci sono. Vabbè, dai, a me mi hanno chiamato per andare a cenare, dai. Ci sentiamo. Ciao Fra, grazie per la chiacchierata, a domani. Ciao Gianni, grazie anche a te. Saluto a tutti e due. Buonanotte e buona cena a tutti e due. Ciao. Riprende pure Fra, ascolto finale e poi chiudo. Ciao Franco, ciao Giulio, io non l'ho comprato non perché non potessi comprarlo, ma perché ce l'avevo già, 25 metri di 1050, non lo volevo buttare via, sarebbe stato solo di buttarla. Ci sentiamo, buonanotte. Ok, già, certo, ma non ti stai dicendo qua, diciamo anche altro, perché non lo so, poi uno non è che si distrugge per comprare 20 metri di cavo, ci mancherebbe altro. Però c'è da considerare, tu ce l'hai bene utilizzata, hai fatto bene, però per il fatto della malleabilità del cavo c'è la K155 che è uguale identico come l'NG58, come flessibilità eccetera, uguale identico, stessa sezione di coso, 6-7 mm quanto è di diametro, ed è uguale, identico, non, se tu lo metti vicino, se non leggi il cavo, perché nella cassetta 55 c'è scritto anche la roba, non ti accorgi, non sai se uno o se l'altro, sono uguali. Io avevo le 1058, quello più schermato, capito, giusto, è quello che va meglio, quello che c'ha la stagnola per intendersi. Sì, anche quello è buono, certo, quello è uno dei migliori delle 1058, certo. Vabbè, ti saluto, già, ci sentiamo, alla domani, ciao, ciao, ciao, ciao, di nuovo, ciao. Ciao, ciao, Giulio, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Franco, buona serata. Ciao.